Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. No! Tempo fa ha confermato che comunque andrà avanti, nonostante. Carlo l'ho sentito ieri, Tavecchio, il presidente Tavecchio, quindi assolutamente mi sembra giusto. Tavecchio e la frase sulle banane è un linguaggio, secondo me, che rientra nella sua normalità. Quando ha parlato delle donne del calcio femminile ha detto: non sono handicappate, sono abbastanza simili agli uomini. Quando ci ha portato un progetto per lanciare il calcio femminile, il titolo di questo progetto era Spogliati e gioca. No, io secondo meglio gli avevo consigliato di no quando si era candidato. No, io ne ho sentito in televisione, ma non sono sportivo. Conosco il Tavecchio perché di Ponte Lambro, sono stata a casa sua tanto tempo e quindi conosco di vista, che è stato un ex sindaco di Ponte Lambro. Buongiorno signora, sono un giornalista. C'è il signor Tavecchio? Si figuri, lei lo sa dove. Ma vuole per caso fare un commento sulla vicenda? No, non ne ho di commenti. Ma è la moglie? Sì, signore. Niente da dire? Niente da dire. Ma sa se andrà avanti con la candidatura? Lo chieda lui. Va bene. Grazie. Buona giornata. Via bene. Faccia buona intervista. Come avete sentito, apriamo con la protesta notabile. Ciao a tutti, Franco Piantanini, dottore di questo programma, Pietro Lacorte in regia, Claudia Schiattone in redazione, Pierluigi Pardo collegato con me. Ciao Pier. Ciao, come va? Benissimo. Ma mi ero perso questa cosa di ieri, ma questa secondo me è la cosa più famosa, cioè Spoglia di gioca mi sembra. Veramente. Cioè, senza Spoglia di gioca è veramente cambia tutto. Ma come ti può venire che ha un progetto Spoglia di gioca? Come ti può venire in mente? Saluto anche Fabrizio Bocca da Repubblica. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti. A cui piace moltissimo il titolo di questo progetto. Beh, insomma, questa è un'altra perla. Sì, insomma, una volta detto degli extracomunitari mangia banane, ovviamente poi sono andati tutti un po' a scavare nel passato e ne hanno, sì, e ne hanno trovate parecchi. Bisogna dire che insomma, però, qualcuno se n'era già accorto dell'inadeguatezza del personaggio, e penso a Juventus e Roma, insomma. Sì, anche il Torino, anche il Torino, Pier. Anche il Torino, Pier, che l'improponibile di Cairo fa il paio con l'impresentabile del suo concittadino Agnelli. Sì, secondo me c'è una specie di gradualità nell'assegnazione delle medaglie, perché stanno arrivando tutti, perché grandissimo rispetto, insomma, poi uno può anche rimanere con Tavecchio, ma sì. Io sai, non c'è il giusto e lo sbagliato, anche se noi abbiamo una posizione molto precisa da questo punto di vista. Insomma, adesso è chiaro che c'è anche un effetto contagio, c'è un effetto anche di oggi è un po' più facile, dai, oggi è un po' più facile scaricare Tavecchio rispetto a qualche giorno fa, per cui insomma Roma e Juve, secondo me, in queste gare classifiche si meritano le medaglie migliori, ammesso che ci sia una medaglia da assegnare. Insomma, sono state le prime, sono state quelle che hanno avuto il coraggio, a fronte di un'elezione che sembrava assolutamente certa, di dire che non erano d'accordo. Adesso chiaramente il fronte si è aperto e quindi diventa anche più facile pensarlo, no? Sì. Però insomma è comunque un segnale. Adesso sono sei che hanno detto di no, mi pare, no? Sì. Quindi, insomma, non contano granché. È comunque un atto di coraggio anche adesso. Non conta un granché. Intanto le ultime notizie dicono questo. Allora, Albertini stamattina, la cronaca è questa: Albertini stamattina ha incontrato Malagò. E ha detto: non abbiamo parlato dell'ipotesi di commissariamento della Federcalcio, ho ribadito che in questo momento non ce n'è la necessità e la possibilità, visto che ci sono due candidati. E poi l'abbiamo fatto sentire anche prima, abbiamo Albertini che dice queste cose. Vabbè, allora la sua voce originale, ribadito che non ci sono in questo momento né la necessità, visto che ci sono due candidati e quindi non c'è la possibilità in questo momento. No. Che anticipazione non ce l'ha? No, nel senso, penso che sarà in linea sul mio colloquio e poi dopo ci risentiremo nelle ore successive per vedere un attimo, fare il punto. Non è riuscito a vederci insieme, magari posso anche pensare che potrebbe succedere successivamente questo. Questa era Albertini stamattina dopo l'incontro con Malagò. Invece nel tardo pomeriggio ci sarà l'incontro decisivo, probabilmente quello risolutivo, l'ultimo ostacolo forse per Tavecchio, cioè l'incontro tra l'altro candidato e il presidente del CONI, Malagò. Si era diffusa la notizia, una battuta di Tavecchio secondo cui sarebbe stato molto stanco e avrebbe una gran voglia di piantare in asso tutto e tutti. Invece stamattina ha smentito così: non è assolutamente vero che non ce la faccio più, come ho letto su un quotidiano che peraltro è Repubblica, cioè il giornale di Fabrizio Bocca, che tra poco risponderà anche su questo argomento. Vado avanti con la candidatura alla presidenza della Federcalcio sin quando le quattro leghe mi confermeranno il loro appoggio. Fabrizio Bocca, che succede adesso secondo te? Ma guarda, io voglio ancora credere che penso che Carlo Tavecchio non diventerà mai presidente della Federcalcio, ma perché, diciamo così, io nutro buone speranze. Certo, però se il fronte si fa sempre più compatto, soprattutto se non interviene chi deve intervenire, perché secondo me lo scandalo Tavecchio, diciamo così, dovrebbe essere già superato, non ti dico finito, però insomma almeno già superato. Che Tavecchio sia un personaggio inadeguato a dirigere la Federcalcio mi sembra ormai totalmente acclarato, ma se chi deve intervenire non interviene, e parlo della giustizia sportiva che fino adesso se n'è rimasta proprio quatta nascosta, approfittando che Abete è dimissionario e che avendo paura che forse il Tavecchio possa davvero diventare il nuovo presidente, e soprattutto il CONI che ha nella materia una strategia di intervento assolutamente molto molto soft, per non dire paurosa, insomma, estremamente timida, perché insomma noi non sappiamo ancora a oggi ufficialmente qual è il pensiero di Giovanni Malagò su Carlo Tavecchio, anzi addirittura lo riceve come candidato. Io secondo me non l'avrei nemmeno ricevuto, avrei detto benissimo, sono il presidente del CONI, potrò dire la mia su questo, fate il presidente che volete, ma non deve essere Carlo Tavecchio. Io avrei detto così, fosse stato il presidente del CONI. La sensazione è che comunque Malagò non abbia nessuna voglia di caricarsi sulle spalle un possibile commissariamento. E d'altra parte, ieri Petrucci che ha occupato per anni la poltrona di Malagò e che adesso siete su quella della Federbasket, a proposito, rigettato il ricorso su Hackett e confermati 6 mesi di squalifica, notizia di oggi su un altro dei casi dell'estate. Ebbene, ieri Petrucci ha detto chiaramente: non so se sarà un commissario, ma ci fosse un commissario, l'unico candidato possibile per la federazione più importante dello sport italiano sarebbe il presidente del CONI, Petrucci. Ipotesi commissariamento però c'è. Allora, lei mi ha fatto una domanda, io devo stare attento nella risposta. L'ipotesi commissariamento oggi non c'è. Se lei mi fa la domanda, chi è che potrebbe fare il commissario laddove... Chi è che potrebbe fare il commissario laddove... Laddove la federazione non riuscisse a esprimere un presidente, io ritengo che essendo la federazione più popolare e più importante, solo il presidente del CONI può fare il commissario della Federcalcio. Però, non mi tagliate quello che dico, questo è solo subordinato al fatto che la Federcalcio non riesca ad esprimere dall'interno un proprio candidato, per cui il titolo non deve essere Petrucci per il commissariamento. 800240024 è il vostro numero verde. Andiamo con il traffico, poi di nuovo con Pierluigi Pardo e Fabrizio Bocca da Repubblica. Si sente più ottimista? Su che cosa? Dopo questo colloquio. Ma non è che l'ottimismo, io credo che il responsabile dello sport italiano era giusto che potesse incontrare, doveva incontrare i due candidati. Siamo due candidati diversi, ognuno ha il suo percorso, ognuno ha le sue idee, però come sempre sono il candidato al futuro a essere presidente, ha bisogno del confronto e dell'appoggio di tutti. Allora, la notizia che stavo aspettando, per la verità stasera avrei voluto guardare Bromma Poikarna Torino, andata del preliminare di Europa League sul canale svedese online BPTV con il commento in svedese del Pardo di quelle parti, ma non succederà. Ero pronto a pagare i 7,50 euro di accesso a questo canale, non succederà perché tuttosport.com offrirà gratuitamente sul suo sito la diretta streaming del ritorno dei Granata in Europa, da non perdere, anche se non ci sarà il Pardo svedese. Pierluigi? Sì, ma io la guarderò a quel punto, e non so se mi chiamate al telefono tutti contemporaneamente, ve la faccio in tempo reale. Che dobbiamo fare? Ci organizzeremo. Due telecamere, due telecamere sono? Due, sì. Il bicamere, come si dice in gergo, veramente molto triste, però insomma già più di una, sì. Meglio di niente. Ma il bicamere era lo standard, due è meglio che one, spero di non dire cose false, lo standard delle partite di Serie B degli anni 90 in Italia. Comunque insomma la partita si vedeva col bicamere, non è... però insomma adesso diciamo che siamo abituati un po' meglio, poi sai, cioè, no alla VTV, no al calcio moderno, tutte queste cose si dicono sicuramente, insomma si può discutere sul fascino del calcio di una volta, due eccessi che il business ha portato in questo gioco, però poi insomma la partita diciamo ci piace vederla bene, sono tutti, no? Anche il più acerrimo nemico del calcio moderno, poi alla fine se può scegliere fra 20 telecamere e due, la vede con 20, insomma se può scegliere va allo stadio, sì. Certamente che è uno spettacolo sempre raccomandabile, sì. Nessuno vuole sostituire lo stadio e nessuna televisione avrà mai nessun interesse agli stadi vuoti. Guarda, questo proprio ti posso dire che è un sentimento, un'idea condivisa. Sky e Mediaset, io ho lavorato in tutte e due, non ho conosciuto una persona, un dirigente che volesse gli stadi vuoti. No, ma guarda che secondo me è un... Io l'ho sempre considerata abbastanza un falso storico, cioè una bugia, il fatto che, almeno in larga parte, il fatto che gli stadi siano vuoti per colpa esclusiva delle televisioni. Fabrizio Bocca, che dici? Ma è chiaro, secondo me, sai, un po' i tempi cambiano, siamo probabilmente anche disposti un po' meno a soffrire determinate scomodità. La TV, il calcio oggi te lo dai in una maniera straordinaria nel salotto di casa tua con due, tre commentatori, spogliatoi, tantissime telecamere, tutto quanto. Certo, l'emozione che hai allo stadio è sempre un altro tipo di emozione, poi sinceramente costa anche di più insomma andare allo stadio, è chiaro che con la crisi di oggi spesso è scomodissimo. Io penso che guarda, tu vedi in paesi che sono televisivamente evoluti come l'Italia, come l'Inghilterra, la Germania, vedi gli stadi pieni, e allora la differenza è semplicemente una, e sta prezzi dei biglietti e soprattutto stadi, strutture, non essere comodi, andare allo stadio spesso è un inferno, al di là della violenza, ma anche cose banali come i parchetti, tipo le file, ci sono stadi italiani che non hanno la copertura, d'inverno piove, ti bagni, cioè. Questo è un problema strutturale, le infrastrutture, non è certamente la televisione. Comunque ribadisco, non ho mai conosciuto nessun dirigente, né a Sky né a Mediaset, che avesse piacere o utilità ad avere gli stadi vuoti, perché lo stadio vuoto rende anche il prodotto televisivo immediatamente più debole. Non c'è discussione. Sì, però hai ragione tu nel sottolineare come in altri paesi le televisioni ci sono come in Italia, tanto quanto in Italia, eppure quando viene inquadrato uno stadio non è il deserto e la desolazione che c'è da queste parti, quindi qualcosa vorrà dire. Se la partita dire. È bella, la gente ci va, Sì, se la partita è bella, bei giocatori, bei nomi, ci va. In Italia il calcio purtroppo spesso è noioso e non vale tanto la pena di andare purtroppo al sacrificio di una giornata, di una serata sacrificata allo stadio. Se tu dai un bello spettacolo, la gente ci va anche volentieri. Se è sicura dello spettacolo, la gente ci va volentieri. Poi va lì e vedi che le squadre non si attaccano per 70 minuti per poi risolvere tutto negli ultimi 10. becchi la fregatura, insomma. Sì, sì. Il problema è quello. Senti Fabrizio, ti chiedo ancora questo, che scenario immagini, tornando per chiudere sul discorso Federcalcio che verrà, che scenario immagini tu? Perché Crosetti l'altro giorno, estremamente fantasioso, chi ti piacerebbe presidente da Federcalcio? Turam, capito? Cross non ha limiti. Tu che scenario immagini dal 12 di agosto alla Federcalcio, commissario tecnico compreso? Siamo, guarda, agli exit poll, eh? Secondo me sono Gagliani e Lotito che devono trovare la via d'uscita. Io non credo che rimarranno legati a Tavecchio anche nel momento in cui vedranno che Tavecchio praticamente non ha più nessuna chance, perché se anche riuscissero a imporlo e a farlo diventare presidente della Federcalcio, io credo che non nella situazione di oggi non potrebbe nemmeno uscire dal portone di Allegri, che tutti gli rinfaccerebbero sempre questa frase al primo provvedimento da prendere per la squalifica delle curve. Tra l'altro lui, certo, ha detto che non vuol chiudere gli stadi, non vuol squalificare le curve, queste cose qui, quindi non potrebbe comandare su niente, per cui sarebbe costretto praticamente a rimanere completamente immobile. Quindi io credo che prima o poi la Lega di Serie A cambierà cavallo. E bisognerà vedere, magari potrebbero anche convergere su Albertini. Certo, per loro sarebbe una netta sconfitta, però insomma nel calcio ci sta anche di perdere delle partite. Sì, come no. CT, chi ti piacerebbe? A me CT? Mm-hmm. Io sono per un CT normalizzatore, per un CT selezionatore. Eviterei grandissimi nomi, un po' illusioni, perché ci vuole un normalizzatore. Io punterei su Guidolin, magari con l'aiuto di un paio di psicologi per sostenerlo nello stress, però insomma io avrei proprio piacere che Guidolin, che secondo me ha fatto un grandissimo lavoro dove ha lavorato, sarebbe proprio quella persona abbastanza capace, insomma, da capire di dover selezionare una squadra senza mettersi troppi grilli nella testa, senza per forza dover costruire un gioco che non ha che non sta né in cielo né in terra e che magari non lo fa nessuna squadra in Italia, insomma. Sì. Quindi, quindi Guidolin. Grazie Fabrizio. No, non è detto che lo faccia, anzi, penso di non lo so, in questo momento non ho la più pallida idea, possiamo solo esprimere delle idee del concetto di preferenza. Tra l'altro sembra un paradosso. Questo è un paradosso, ma è tipo trasferire l'onestà intellettuale di Fabrizio. Guidolin si dice che possa essere il candidato di Tavecchio, per cui insomma, però sì, è vero, certo. Sono due piani completamente diversi, ovviamente. L'inadeguatezza di Tavecchio è venuta fuori con quella frase, ma non soltanto in quella frase. Certo, sì. Ma magari una scelta da vecchio ogni tanto la zecca, non è che io sono anche abbastanza mai convinto che non sia così razzista, anche se Foglia di gioca rimane veramente un tema sul quale dovremmo indagare. Però insomma il punto vero è quello che diciamo l'altro giorno, cioè il calcio italiano ha una forza, una tradizione e anche dei nomi enormi in questo momento di difficoltà, veramente, ma ci si può affidare su una figura così poco carismatica, così sconosciuta? Questo è proprio il profilo basso, secondo me, e che incappa in defaianza di questo tipo semplicemente perché non è abituato, come lui stesso ha confessato l'altro giorno. No, servirebbe un governo di unità nazionale, diciamo così. Fabrizio Bocca, grazie. Ciao a tutti, ciao. Senti Pier, prima di salutarti invece, andando sul campo, prima che davanti a tuttosport.com per vedere Torino contro gli ultimi classifici del campionato svedese stasera, assolutamente imperdibile, la Juve tossisce 0-0 ieri a Cesena, è chiaro, 30 luglio non vuol dire niente, con tutte le premesse del caso, però sembra un motore un po' ingolfato. Hai una spiegazione? E con Vidal che oggi potrebbe, insomma, pare che l'offerta di United sia 60 milioni per il giocatore e 13 a stagione a Vidal, sono soldi pazzeschi. Sì, no, allora per quanto riguarda Vidal è il vero tema del mercato della Juve, perché come era largamente specifica una parola per Cantabria, a meno di colpi di scena clamorosi non mi sento di immaginare, e quindi a quel punto la vera domanda sarà come investire quei soldi, farlo bene, e da lì comincia. La partenza di Vidal può essere una tragedia per le Juve o può essere addirittura un'opportunità, nel senso che poi se prende quei soldi dopo aver utilizzato e spremuto questo giocatore nel migliore dei modi in questi anni, riesce a spenderli bene, riesce anche a non indebolirsi. Quindi questa è la vera domanda di mercato per quanto riguarda la Juve. Sul precampionato sembra che insomma chiaramente la sconfitta contro i dilettanti, contro Lucerno e il pareggio contro il Cesena fanno notizia, soprattutto perché l'allenatore è cambiato. Certo. L'allenatore, lo sappiamo, non è accolto da grandissimo entusiasmo da parte dei tifosi, e qualche punto interrogativo ovvio per il fatto che non c'è più Conte, anche i critici se lo mettono in testa, e questo quindi fa notizia, questa cosa, e montano una notizia, un piccolo caso, un po' di realtà. Siamo al 30 luglio. Siamo al 30 luglio, con i reduci dal mondiale che sono appena tornati, ci sono un sacco di... Insomma, è una squadra completamente diversa da quella che vedremo, quindi questo è chiaro. Nazionali appena tornati, per cui insomma... Proprio perché ha cambiato allenatore, il clima, servirebbe un clima diverso per aiutarlo a costruire. Questo è il fatto. La vera notizia non è la difficoltà di ieri, quanto la difficoltà che può nascere dallo scetticismo. Certo. La difficoltà ambientale per Allegri. È un po' lo stesso discorso del Milan di Zaghi, nel senso che al di là della gravità della sconfitta resto contro l'Olympiacos o contro il Manchester City, il problema è che Inzaghi, che serve e che è stato preso per riaccendere gli entusiasmi, per comprare la campagna abbonamenti, tanto per essere chiari, per creare un po' di energia, è chiaro che questi risultati qui non accompagnano questo tipo di situazione, e quindi diventano un freno agli entusiasmi. Paradossalmente però mentre Allegri ha la squadra, perché la Juventus rimane ancora la più attrezzata, possiamo discutere di quanto si è ridotto il distacco dalla Roma, rimane la più attrezzata, Allegri ha la squadra, Inzaghi non ce l'ha, quindi ha più credito rispetto ad Allegri certamente in confronto dell'opinione pubblica milanista, ma non ha la squadra. Ciao Pier, sentiamo domani. Ciao. Allora abbiamo La borsa, poi abbiamo Giuseppe da Palermo, Marco da Bologna, ascoltatori 800 24 00 24, numero verde. Non abbiamo creato moltissimo, però direi che sono soddisfatto dell'allenamento, non ci sono stati infortuni e questo è molto importante in questo momento, anche perché abbiamo pochi giorni per preparare la stagione. Abbiamo da andare in tournée, abbiamo da giocare altre 3 partite e quindi dobbiamo cercare di concentrare in 25 giorni tutto il lavoro che di solito viene fatto in 45. Che programma è questo? La verità è tutto un ricordo di mio. Uy, eso te duele muchísimo, amigo. Imagínate que todos los recuerdos de tu vieja estén en un mismo lugar y alguien sepa que están en un mismo lugar. Va bene, Dieguito Maradona pizzicato alla TV argentina non lo vedo benissimo, stava tornando a casa a tarda ora e va bene, però insomma, parlata lascia intendere una serata difficile, e dice tra le altre cose, accusa l'ex fidanzato con cui è in querela continua di avergli incendiato la casa, un po' triste. Un ascoltatore scrive: non sono un fan di Tavecchio, ma è tutta la settimana che state facendo una campagna dir poco vergognosa, eccetera. A me sembra che stiamo serenamente parlando del futuro del calcio italiano e di quello che è il più forte candidato alla presidenza della Federcalcio. Se poi non possiamo esprimere, come voi potete esprimere e lo fate tutti i giorni attraverso il numero verde, le nostre opinioni, tanto varrebbe appendere il microfono al chiodo. Giuseppe da Palermo, buongiorno. Buongiorno gente. Dica. Senta, io ho un'altissima stima della categoria dei giornalisti, in particolar modo quelli sportivi. E ritengo che forse sia il momento che voi altri scendiate veramente in campo a proposito appunto delle sorti della Federcalcio. Io ho sempre sostenuto che il commissariamento di questa federazione può essere fatto per giusta causa, visto e considerato che si tratta di un mandato interrotto dopo 2 anni. Detto questo, ritengo che esistono sulla piazza dei personaggi della carta stampata e non solo, che siano in grado di conoscere le normative, i regolamenti e tutto ciò che comporta la vita amministrativa di una Federcalcio. E faccio 4 nomi perché io ritengo che il presidente del CONI Malagò dovrebbe prendere in seria considerazione questa sorta di commissariamento a quattro con un quadriumvero così composto da Gianni Mura, Franco Melli, Roberto Beccantini e Giancarlo Padovan. Giancarlo Padovan tra l'altro è anche un allenatore di calcio con tanto di patentino, per cui è più competente di tanti altri. Sì. Detto questo ancora ritengo ma perché lei vedrebbe un governo dei giornalisti? A me intriga di più la figura dei calciatori, che conosco bene, no, i problemi. Guardi, perché i giornalisti? Genta, dobbiamo vedere le cose, e voi altri lo sapete meglio ancora di me che avete contatto con il mondo dei professionisti del mondo del pallone. Sapete benissimo che è anche una questione di quoziente intellettuale. Non dico che i nostri calciatori sono particolarmente limitati, ma è ovvio, ed è, e non è una nota non trascurabile, il fatto che non abbiano quell'esperienza e quella capacità anche dialettica, quella capacità anche di argomentazione che giornalisti sportivi del calibro di cui le ho parlato possono... Questa poteva essere un'idea, ripeto, ho sentito nomi di giocatori, d'altra parte all'estero abbiamo ampi esempi di giocatori che avrebbero totalmente le carte in regola da ogni punto di vista per ricoprire questo ruolo, ma lo stesso Albertini mi sembra una buona soluzione, ed è una soluzione sul tavolo. In questo caso non si tratta tanto di parlare, tanto di incartare la gente e di mettere fiorellini dal punto di vista del lessico. Certamente la comunicazione è fondamentale in questo momento ed è uno dei motivi che ci portano a dubitare della candidatura di Tavecchio, lo diciamo molto serenamente e lo ripetiamo tutti i giorni, ma serve anche molta sostanza. Ora non so se questa possa essere la soluzione ideale, ce ne sono molte di soluzioni, la mia preferita rimane comunque quella di sarebbe quella di affidare questo incarico ad un ex calciatore che conosce perfettamente le problematiche che ci sono, e cosa che vale ovviamente per Albertini, tra l'altro è lì da 8 anni, con risultati alterni. Si possono fare anche delle critiche ovviamente sull'operato della precedente gestione della Federcalcio eccetera eccetera, però insomma non trovo delle pecche e dei difetti in questa candidatura. Marco, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei andare un po' controcorrente, se è possibile. Come no? Secondo me Tavecchio ha sbagliato i termini, ma il ragionamento che ho fatto è giustissimo. E le spiego anche dal mio parere, il mio modesto parere. Io sono tifoso interista. In questi anni di Gresco ne avrò visti 50, 60, non so. Quanti c'erano in Italia di quei giocatori lì? Anche meglio, magari con dei nomi diversi che facevano meno share, quanti ce n'erano? Secondo me lui voleva dire questo, poi ha sbagliato i termini. Sì, ma sbagliare i termini non è poco, sbagliare i termini in questo caso e in quel modo non è poco. Una, perché se noi pensiamo che lui ha detto questa cosa qui, perché ora fissa un conto, ma secondo me l'ha detto perché magari vuole promuovere i vivai, fare in modo che qualche giocatore italiano venga su, invece dei famosi Gresco o gli Oliveira del Milan che mi vengono in mente. No, ma guardi che su questo punto penso si possa essere tutti d'accordo con tutti insieme e con Tavecchio, più o meno insomma, è chiaro che insomma la forma è sostanza in quello che ha detto, che è il pretesto per cui siamo qui a parlare, no? Perché altrimenti il discorso sarebbe già finito, staremmo ad aspettare semplicemente l'11 di agosto e a salutare l'elezione di Carlo Tavecchio. Però in questo caso la forma è sostanza. Poi sul discorso io continuo a pensare a modo mio, e cioè al massimo livello professionistico possibile per uno sport, al massimo livello professionistico possibile devono giocare quelli bravi, poi che siano italiani o che vengano da un'altra parte. È ovvio che non stiamo a ricordare che i tempi sono cambiati, che c'è la Bosman, che c'è la libera circolazione in Europa dei liberi professionisti eccetera eccetera eccetera, non stiamo a parlare in termini di legge. Però certamente bisogna lavorare sui vivai, però non garantire il posto, non contingentare lo sport proteggendo i giocatori italiani, perché abbiamo avuto delle situazioni di questo tipo, ad esempio nella pallacanestro, con il protezionismo non vai da nessuna parte. Semplicemente i giocatori italiani di livello sono quelli che sono, e con questo, con quel tipo di meccanismo finiscono e finivano per guadagnare molto di più di quanto valevano. Quindi anche questo è un discorso su cui riflettere. Secondo me a questo livello qui, quando diventa uno spettacolo, devi giocare con quelli bravi, devi avere quelli bravi in campo, e se a parità di livello uno che arriva da un'altra parte costa di meno, non vedo perché un club debba essere costretto a prendere un giocatore italiano. Piuttosto mi piacerebbe, l'ho detto molte volte, vedere giocatori italiani che seguono la via di Verratti, magari non a Paris Saint Germain, o che seguono la via che ha seguito Giuseppe Rossi a suo tempo. Se non trovano spazio qui e vogliono davvero fare i calciatori, andranno a giocare dove c'è qualcuno che li prende, li vuole, li paga. Raffaele Avellino, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, io sono un tifoso dell'Inter. Sì. Anche se Napoli e Roma sono favorite, io penso che lo scudetto lo vinca l'Inter, me lo auguro almeno. Beh, da tifoso, certamente. Per quanto riguarda i giocatori stranieri, io credo che questi giocatori stranieri che vengono in Italia costituiscono una pluralità che secondo me è un beneficio, è un qualcosa di buono, ecco. Lei come la pensa? Grazie. Ma io penso che non ho nessuna preclusione. Io ho delle preclusioni nei confronti dei brocchi, che siano italiani o stranieri. Dall'altra parte, insomma, anche questo discorso, l'Argentina, che ha fatto la finale per i mondiali, è un paese di esportazione di giocatori, quindi è un paese in cui i giocatori vanno via giovanissimi, e tutti i giocatori dell'Argentina, praticamente della nazionale argentina, giocano all'estero. La Colombia certamente non è un paese che ha un campionato di altissimo livello, possiamo dire lo stesso per il Cile, non parliamo della Costa Rica. Sono paesi, il Brasile stesso è andato malissimo in questo mondiale, lo sapete, però storicamente è sempre stato un paese di esportazione dei giocatori, quindi vedete, non regge fino a un certo punto il discorso, ok, devono giocare in Serie A i giovani giocatori italiani. Su questo assioma si finisce, secondo me, per fare parecchia demagogia. Poi è chiaro che se un giocatore esce dal vivaio, è bravo ed è italiano, non c'è un solo presidente che o un solo allenatore che non lo vorrebbe far giocare. Questo è evidente, ma vale per tutti gli sport, sarebbe il massimo della vita. Probabilmente bisogna lavorare meglio sui settori giovanili, in modo da poter produrre giovani giocatori italiani che siano anche bravi, come bravo è Leo Turrini. Ciao Leo. Comandante, buongiorno, vogliamo subito parlare di tipo va? Sì, e certamente. Ti candidi? Ti candidi? No, volevo dirti questo. Secondo te, se Tavecchio fosse al muretto della Mercedes, no? Sì. Tra Hamilton, che è nero, e Rosberg, che casualmente è bianco, chi preferirebbe? Quale ordine di scuderia impartirebbe? Direbbe che da Pero a Formano Hamilton deve rallentare, no? Quando il caraibico, hai capito? Il caraibico deve rallentare. Di Rosberg, che è bianco come la neve. Devo dirti che questa cosa di Optipo Ba è sicuramente la storia più intrigante dell'estate. Sono sicuro che la starai affrontando con il giusto piglio, carissimo gente. Non ne posso, come al solito, non ne posso più. No, io guardo, gente, volevo dirti, so che dispiacerà a Tavecchio, ma tu sei il LeBron James dei conduttori radiofonici. Non mi interessa il fatto che tu sia nero nello spirito. Senti, ma c'era il LeBron James. Ma c'è un ascoltatore prima che vorrebbe invece un governo della Federcalcio affidato ai giornalisti. Ai giornalisti? Sì. Ha fatto i nomi di... Adesso ora non mi ricordo più bene, mi ricordo Padovani, quattro giornalisti, Gianni Mura, eccetera, ha fatto quattro nomi di quattro dei principali giornalisti italiani. Ma sì, io devo dirti, con adesso tutto rispetto, vale tutto, no, con tutto il rispetto ai colleghi, diciamo così, candidati per questa soluzione, sono certamente fantastici, adattissimi, eccetera, ma io, appartenendo alla categoria dei giornalisti, come diceva Groucho Marx, non entrerei mai a far parte di un club che accettasse la mia richiesta di adesione. Quindi è molto meglio invece non passare da Tavecchio ai colleghi miei e tuoi, e forse individuare una soluzione, magari un attimo più al passo con i tempi. Mandiamo Tavecchio alla Mercedes, cioè proprio sistemiamo tutto. Tu hai già detto, hai già fatto tutto. Conte alla Ferrari, ma hai detto l'altro giorno, e Tavecchio alla Mercedes, se mettiamo a posto tutto e si torna a vincere il mondiale a Maranello, massimo della festa possibile. A Maranello, tu sai che ci siamo accontentati di questo spettacolare secondo posto di Alonso. Senti, se ne parliamo tra un attimo, ti va? C'è il traffico? Certo. No, allora voglio dire una cosa. Dilla. Ve la dico? Sì. Sembra che Raikkonen stavolta sia imbottigliato sulla Lecco Colico. So che c'è una coda lì sul lago, perché siamo alla fine del mese. Sta guidando il mio amico Kimi, eh. Abbiate pazienza. È soddisfatto delle informazioni sul traffico, Leo Turrini? Sì, volevo solo rassicurare i tuoi ascoltatori. Sì. Come hanno detto, in corsia di sorpasso tamponamenti tra Cormano e San Giovanni. Sì. In questo caso non c'entra Raikkonen, perché il mio amico Kimi quest'anno di sorpassi non ne fa, quindi è escluso che fosse coinvolto lui, carissimo gente, hai capito? No, però peraltro, peraltro, tipo per onor di cronaca devo dire, ti ho seguito nel dopo gara su Sky, e hai invitato Villeneuve a dire, dillo per una volta che Raikkonen ha corso bene. Sì, dillo, è vero. Devo dirti che Jacques è un amico e finalmente si è piegato la mia richiesta. Adesso seriamente, in Ungheria abbiamo visto la miglior gara di Raikkonen in questo campionato. Sì. Perché non per colpa sua, è partito dal fondo, è arrivato sesto. Certo. Quindi tanto di cappello. Come ha detto Villeneuve, è un po' sfortunato nel confronto, hai capito? Un po' appunto come Tavecchio e con Tipo Ba, perché nel giorno in cui Raikkonen fa miglior gara in Ferrari, Alonso ha fatto forse la miglior gara dei suoi ultimi tre anni, dei suoi ultimi tre campionati, perché è stato certamente fantastico. Dopodiché tu vorrai sapere, Alonso cederà le sirene della Honda, Honda su Honda, famosa canzone di Riccardo Cocciante, eccetera, oppure resterà sullo scoglio di Maranello? Ecco, questa è una bella domanda che mi ha fatto il collega Genta, che io stimo tantissimo. Una risposta certa non l'abbiamo, nel senso che Fernando ha un contratto per altre due stagioni con il cavallino, però esiste la possibilità, essendo i contratti pezzi di carta, che egli medesimo dica: guardate, ci ho provato per 5 anni di fila, adesso la carriera non è eterna, magari vado dove... L'unica roba però sulla quale io, se fossi Alonso, mi fermerei a riflettere è che non è che la McLaren dall'anno prossimo motorizzata Honda stia andando più forte della rossa carriola denominata F14P, anzi sta andando più piano. Potremmo dire che la Ferrari di quest'anno è una carriola e la McLaren è, sai, quelle cose da bambini che si spingevano facendo i giochi per terra, i modellini. Sì, ho capito, quindi ho capito. Io non vorrei, per l'amico austriano, che dalla si profilasse... padella. Ma il padellone nella brace. Tanto vedo io, gente che tu mi leggi nel pensiero, c'è, cioè, il LeBron James, ho detto, io potrei paragonare a un atto bianco, ma io, essendo, diciamo così, non in linea con Tavecchio, ti do del LeBron James. Intanto io sto raccogliendo un plebiscito, ma te lo giuro, tra Twitter, Alessandro Cavalli, Stevie, poi ho Carlo da Cosenza, e ce ne sono molti altri. Ti tocca la presidenza della Federcalcio. Turrini, che devo fare? Turrini presidente della Federcalcio, no, lo dicono loro, no, ormai vale tutto, suffragio universale. Sì, no, ringrazio gli amici ascoltatori, però devi dire che il mio sogno è di venire con te Pardo, cioè io non voglio fare il presidente della Federcalcio, io voglio essere fisso a tutti i convocati, voglio poter leggere il traffico io, dire, c'è la coda, anch'io lo vorrei, ma non ce lo fanno fare. Che tra Pero e Cormano purtroppo sta guidando Raikkonen, quindi dovete andare un po' più piano, ecco queste cose. Io non sono interessato alla presidenza federale, ma diciamo alla co-conduzione di tutti i convocati, sì, mi dichiaro disponibile sin da questo momento. Grandissimo, caro LeBron James, grandissimo. Ma non c'era Tavecchio al muretto della Mercedes domenica, però quell'ordine che è stato dato al caraibico è stato un insulto. Fai passare il biondino, ma perché? Ma perché devo farlo passare? È stata una cosa oltraggiosa, perché tra l'altro eravamo in una situazione, diciamo così, emotiva, molto speciale, nel senso che Hamilton nella gara di Budapest era partito ultimo e Rosberg era partito primo. Ora tu dimmi come può passare per la testa di un ingegnere, in questo caso si chiama Paddy Lowe, al muretto della Mercedes, trovandosi Hamilton, anche grazie alle circostanze, incredibilmente davanti al suo compagno, nonché unico rivale della caccia al titolo, come può passare a questo metto per la testa di dire adesso a Hamilton gli diciamo che siccome Rosberg ha gomme più fresche deve dare strada. Questo però cosa ti porta a concludere? Che c'è una spiegazione per la quale i tedeschi tutte le guerre le hanno perse. Perché alla fine questi tedeschi, anche se Paddy Lowe è inglese, però è stipendiato dalla Mercedes, sono un po' fessi. Io non voglio dire a tutti gli italiani abbiamo l'assillo della Merkel, questo, quell'altro, no, il debito pubblico, bim bum bam. Sì. Però alla fine i tedeschi, no, si rovinano da soli. Allora, quest'anno la Mercedes certamente vincerà il campionato. Vabbè, ci mancherebbe altro. Ma mancherebbe altro non lo vinca. Ecco, però ti stanno dimostrando qual è la loro debolezza, hai capito? Questi hanno la necessità di applicare l'algoritmo alle emozioni, l'algebra alle passioni. Non ci interessa se Hamilton sta facendo una rimonta fantastica, eccetera. L'altro alle gomme che durano un po' più, sono un po' più veloci, gli si dia strada. Ecco, questo è il limite grandissimo di Crunch Germania, come diceva Fantozzi in certe sue memorabili pellicole, ed è questo che mi fa sperare che per la Ferrari in un futuro non remotissimo si avvicini il momento del sorpasso sulle Corsia Pero Cormano. Intanto io, prima di stuzzicarti su un altro argomento, perché non ho finito qui con te, non ho finito con lei, signor Turrini. Ma io verrei a pulirti in compenso alzo per interposta persona un cartellino giallo. Dal punto di vista musicale, l'interposta persona è il maestro Bartoletti, che mi segnala che onda su onda di non è di Gocciante, Turrini. Ha ragione Marino, per onda il mare mi porterà. Paolo Conte. Ha ragione, è Paolo Conte. Portata, ma c'è anche successo un brano, da Bruno Lauzi. Perfetto, ma c'è anche un brano di Riccardo Cocciante. Un'onda che viene, un'onda, un'altra onda che va. Credo che il testo sia di Mogol. Adesso... Ha ragione Marino, però il titolo corretto. Attendiamo replica. Conte, ma c'è cercato da un'altra onda che viene, va. Ecco, io adesso non canto perché sono stonato. Marino faceva parte dei 4+4 di Noro Orlandi, quindi invece potrebbe anche farvela in diretta, ma io sì. No. No, senti Leo. Aspetta, noi siamo avanti. Testo di Mogol, hai ragione. Siamo avanti. Ecco, fai sentire. Seduto da un'ora qui, a guardare questo mare che si muove anche dentro me, così in tumulto. Mi ritornano in mente, sai. Leo, ti sei riscattato in questo modo, chiediamo la valutazione di Marino Bartoletti, che ti manda una matita blu, aggiungendo però Leo sempre grande. Ascolta, io ho soltanto 3 minuti, andrei avanti a parlare con te per ore. Dammi invece un flash su un'altra cosa. Il Pirata del Cowboy, il Cowboy è un libro che hai scritto tu. Rimanda le suggestioni di Pantani e di Armstrong. Con Nibali queste suggestioni non ci sono. Ma che libro si potrebbe scrivere per Nibali? Ma guarda, io seguo da lontano il ciclismo adesso. Devo dirti sinceramente che questo ragazzo siciliano nelle ultime stagioni mi ha conquistato. Ma ti emoziona? Non è solo per la vittoria dell'ultimo tour, questo ricordiamoci che ha vinto anche la Vuelta e il Giro, certo. Sono solo i 6 nella storia dell'umanità. Sul piano dell'emozione pura, io credo che Pantani fosse inarrivabile. Pantani aveva qualche cosa di distintivo, se vuoi persino di animalesco nel suo modo di aggredire la salita, che Vincenzo non ha. Nibali ti dà sempre l'impressione di essere quasi un computer, no? In perfetto controllo della gestione della corsa, quindi questa differenza certamente esiste, ma non dobbiamo considerarla una diminuzio, no? Di Nibali, nel senso che ti ho detto, Nibali, se uno ha vinto il Giro, il Tour, la Vuelta, ci sono riusciti Merckx, Anquetil, Hinault, Gimondi e Contador, insomma, abbiamo già detto tutto, no? Dopodiché c'è il resto, una roba, è emozione, tu dici. C'è una roba secondo me che rimane sullo sfondo, che non tocca Nibali. non c'è nessun dubbio che la sua grande impresa al tour non abbia scatenato l'euforia collettiva del Pantani del 98. E sì, c'è una spiegazione riguardo Vincenzo: siamo rimasti scottati troppe volte dalle cronache del ciclismo negli ultimi, oserei dire, due decenni, no? E quindi, anche senza motivo, prendiamo tutto con beneficio di inventario, hai capito? Di questo occorre essere consapevoli. Ripeto, Nibali non c'entra nulla, ma è la verità. Cioè, io il 98 di Pantani al Tour de France me lo ricordo, con la gente che si fermava, smetteva di lavorare, accendeva la televisione, e ti dirò, se tu fossi stato in onda allora avrebbero spento anche Radio 24, tutti convocati, pur di noi seguire la salita noi di Pantani, non c'era, ma questo lo so perfettamente, e si racchiude in una parola che è emozione, io credo, come l'altra parola di qui sopra per Tavecchio, inadeguatezza, per Pantani era semplicemente emozione. Grazie Leo Turrini, emozione parlare sempre con te, grazie davvero. Grazie Franco Pietrini, autore di questo programma, Pietro Lacorte in regia, Claudio Schettone in redazione, ci sentiamo domani alle 2, ciao.